Motivi e incentivi. Quando l'uomo si rende conto razionalmente che l'obbedienza ad Allah è l'unico modo per la realizzazione della propria umanità, si trova in una condizione interiore che lo motiva fortemente a obbedire ai comandamenti divini, sforzandosi di ottenere il compiacimento di Allah, il Dio, nel compimento di ogni azione. La certezza del giorno del giudizio, certezza fondata sulla ragione e sulla testimonianza attendibile di Allah, il Dio, dà al credente la forza interiore di affrontare serenamente le difficoltà della vita e un potente incentivo a condurre una vita virtuosa. Quando la certezza del premio e il timore di non conseguirlo sono insediati nel cuore dell'uomo, producono un'energia poderosa capace di accendere l'animo al compimento di azioni virtuose anche in circostanze difficili e pericolose. Inoltre, essi formano un solido scudo psicologico che protegge dal male anche quando esso si presenta nelle sue forme più allettanti. I musulmani possiedono nel sublime Corano e nella nobile Sunna il criterio distintivo del bene e del male, la fonte della legge morale, la descrizione delle conseguenze dell'obbedienza e della disobbedienza, e la virtù viene promossa in ogni campo, in ciascuno dei quali i comportamenti positivi, dopo essere stati chiaramente disciplinati e interconnessi, realizzano il sistema etico equilibrato e onnicomprensivo dell'Islam.